Sassari, passo sul 21, ma tanto per provare, ma non è mai riuscito. Sì, no, a certa ora no, non ci siamo, non si mai ci può sapere da Rugamio. Sì, con quello lì riesco abbastanza bene, già va bene, ma è anche l'antenna che va bene. Ah, è buona. Avete già fatto uno di queste cose, minore di guai. Cacca, ma piano piano già si fanno le cose. Allora, quando ho fatto la macchina, inteso arriva la traccia. Cacca, non sa niente, no? No. Cacca. Sì, è buona da adesso, è buona che la musica. Cazzo, mi sei in casa di tenere il circuito da voler andare dal finestrino. Ma glielo fa, glielo me lo ripiega. Sospesso nulla. Prego, pensate che ti fa. Cazzo. Ma diciamo che adesso è un pochino più orecchiabile di prima. Poi quando attivi le cose, il telefono, quando se devi rispondere dal telefono, senti direttamente dalle casse dell'autostrada. È preciso identico a quello di ricordo. Solo che in più c'è il pennino, c'è quel sistema là. Ti sto dicendo che è preciso. Non lo sapete. Questo vuoi dire. È uguale, se tu lo guardi, solo che c'è la differenza, c'è il pennino, tutto qua è la differenza. E lì. Stavo leggendo le istruzioni poco fa, però cazzo, qui ci vuole un mese per imparare. E dice che puoi mettere anche la chiamata vocale. Al posto di fare il numero del telefono, puoi fare anche la chiamata vocale. Ah sì, è una buona, è un'altra di balla. Se va a stare dietro a quelle cose, cazzo guai, io non riesci più. Ma non c'è nulla da fare, le cose vanno fatte in quella maniera là, Giuseppe. Se vuoi ascoltare buona musica, altrimenti ascolti quello che ascolti. Va bene adesso, dai, due certe volte ce l'abbiamo sparati bene e adesso cerchiamo di fare il possibile per farci ascoltare. Cappa, ma poi non è di sparare, cioè, potenza, vuole anche buono il suono, ma cosa c'è? Io sono buone tutte, buone colonnine, ma poi alla fine il suono non è buono, non serve. Invece quando l'impianto è fatto, che è la stessa marca anche, già, ma anche o Giuseppe, la morte si marca, il sub. Cioè, anche c'è la buona musica è quella, cioè poco di fa. Ma io se mi credi, addirittura io manco sapevo come era fatto quello là, né che marca fosse, né come era fatto. Lo puoi prendere io. Andà bene. Allora devo passare a farmelo sostituire. Però per la differenza, non più mano l'altro più o meno. Da quanto era il suo più grande? Quello che avevo visto io, quello ancora più grande. Non lo ricordo bene, sia la 3. La 300, non me lo ricordo bene. No, io lo devo controllare da quanto era, non me lo dire perché qua non. A dire la verità non mi ho mai chiesto da quanto è, cioè le tre qui le devo controllare con calma e vedere da quanto è. Ragazzi. No, ma è buono, va bene però. Io gli ho detto, a quello l'importante è che mi fai una buona cosa. Sicuramente che sto da un buon suono, se no le rompi le ossa. E cacca, e te finora tu non sei tenuto un giorno, vero? Cagliava. Quindi, vedi quello che la dipende vuole fare. Ho detto, fai quello che mi ha detto, tranquillo, che quando vieni, se non si va bene, me lo devi venire. Senti, me lo fai vedere. E per poi hai fatto la professione. Chi doveva vivere in corso? In via come dice Giappa. Già ci siamo capiti di là. Ma poi l'ha attaccato al palificio. Sì, ho capito benissimo. Ma sembra tranquilla, me l'ho fatto anche abbastanza amicizia, ho visto che è abbastanza la mano comunque come persona. Ma guarda che non mi ha piaciuto con la borsa, adesso. Sì, quello già lo so, perché me l'aveva detto. Però ho visto che un bel tranquillone, mi hai capito? Ma se lavora bene uno. Ma qua ti posso dire una cosa, che prima di farlo stavamo parlando, no? Io ho visto che anche, cioè, mi sa abbastanza, era bel suo lavoro, mi sa un medico di quella cosa lì. Gaffa. Ah, purtroppo io potrei avere cose. Gaffa, no, io devo controllare tutto l'ordine, tutto il topo. Gaffa. È buono così, là. Ma non c'è altra cosa migliore. Se era uno, figurati, dopo di me quello si stava facendo qualcosa di micidiale. Addirittura stavo risolvendo con questa pellicola particolare i pannelli, gli sportelli. Tu figurati anche dentro lo sportello mio. Dico che bisogna ridere, quando sono è bloccato tutto. Ma c'è questa pellicola particolare che gli fa proprio da coso negli sportelli, la cassa acustica, ma devi sentire che glielo dia. Tu quando lo suoni lo sportello da fuori, che lo batti con le dita, sembra che sia blindata talmente qui col suono. Cazzo, ragazzi. Roba buona. E ha detto che questo è un fatto di soldi con la pellicola, lo stava facendo a quel tipo, però il proprietario di quella macchina lui ha detto, guarda, cioè cambia la giorno alla notte. Beh, già lo so. Ma un bel niente non ne vada che vuoi che si intenga proprio. Quello lì proprio serve per far sentire ancora di più la melodia del suono, perché ti fa la cassa armonica. Ragazza. È assurda, così che vuole. La perfezione del suono è bella. E poi non tanto a volume alto, è giusto proprio la qualità bella del suono. A volume normale, però deve sentire proprio la qualità. Ragazza. Che c'è volume normale, l'importante è che ci sia la qualità del suono, ma cosa che hanno per la qualità te ne chissà su cosa è fasciato, non è bello da sentire. E tu quando non è buono intendi, c'è quelli paneti in casa di tutti interi. Perché sembra così, ma anche le casse vogliono diventare un bel. Fai quello che gli dà il buon suono al sub, non c'è nulla a fare. Ma io guarda, ho visto macchine con, ad esempio, con una radio eccezionale e con casse scadenti, ma proprio una cagata immensa. Non lo so. No, invece ho visto niente che si pone lo stereo da 1000 volte, impianto da 1000 volte, da poi... E fate che c'è il regolazione, cazzo, che manco la radiolina, cazzo. Quello è normale. Magari cazzo te la riempire dei bassi, state la tanta disperla, e ve l'ho sentito qualcuno anch'io in giro, roba da uccidere. Io dico, cosa cavolo te lo fai a fare un impianto di mille euro quando sei un fradicone? Ma lascia fare, lascia tutto com'è. KK, perché se non fai te lo devi vedere, e te lo devi vedere bene, tu figurati che quello che io in medio, se metti quello più grande, se ti capita di passare, guarda che c'è in vetrina, esposto, cazzo io sono il tuo bambino. Sarà mille, sarà. Tu hai visto come ho fatto quello che ho io? Tu immaginati che quello mio ci sta dentro quello là. Siamo su, dai, cazzo, c'è ammortizzato, le gambe zitte, che so tocca. Non lo so se nulla quello, cazzo, è che quello occupa un po' di spazio, però guarda, deve essere una melodia che te lo senti anche dentro le costole come suono. Io passo sul 41, mi sono rotto le palle, c'è questo qua. Cacca.